Radio Beograd, prvi program. Radio Zagreb, Sarajevo, Titograd i Novi Sad. Veselo veče. Za službena putovanja koristite prednosti prevoza avionima JATA. Novo imenovanog, izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Sovjetskog saveza Jugoslaviji. Sve mladiće volim, kako da odolim. Zeleno tražim. Mi smo more krvi proljeli za bratstvo i jedinstvo naših naroda. Utakmica između Partizana i Hajduka. Balkan Rock. Bude verista. Sumai Radio. Fabrična jutra. Musica, pop cultura e curiosità dal mondo jugoslavo. Tu sei la... Chi sono io? Dai, dimmi. La capa di Balkan Rock, il direttore. Io sono il direttore artistico, ma tu mi fai il comitato censura perché ogni pezzo che voglio mettere passa prima dal comitato censura, Giorgio. Cocimo censuru, come dicevano Cud Idioti in una loro canzone. Cemo censuru. Cocimo censuru. Allora, vabbè, Balkan direttore... Rock. Benvenuti, bentornati a Balkan Rock, come ogni martedì, appunto oggi il 3 giugno, tra non moltissimo faremo una pausa estiva, immagino. Siamo staccanovissimi avanti tutta l'estate. Dai, non promettere sempre mari e monti, che non sei credibile. Probabilmente faremo una pausa estiva, perché non penso che a luglio e agosto la gente sta attaccata davanti al computer, fa altro, perché immagino. No? Perché no? E poi in questo studio... Non mica tutti borghesi come te. In questo studio si morirà di borghesi. A chi? In questo studio si morirà di caldo, ma comunque vedremo, riviteremo aggiornati. Stasera avremo un paio di argomenti, spero interessanti per tutti voi. Partiremo un po' con un resoconto di quella che è la situazione alluvionale in Bosnia e Serbia, brevissimo. Avremo un collegamento telefonico con Enrico Betti, che ci racconterà del suo progetto Sarajevo Rewind 2014-1914, parleremo di Radne Akcije, ovvero le brigate di lavoro. Le brigate di lavoro, esatto. Quelle grandi iniziative di massa che servivano per la ricostruzione del paese dopo guerra e che sono proseguite dopo anche nei decenni successivi, negli anni 60, 70, fino agli anni 80. Sì, collegamento telefonico in realtà è un'intervista registrata oggi pomeriggio. Esattamente. Con Erika, appunto, che ci spiegherà un po' l'idea di questo documentario su Gavrilo Princip. E su Francesco Ferdinando, quindi andremo un po' a sfatare un po' di miti anche su Gavrilo, no? Giusto? Ci sono molte mistificazioni intorno a questa figura. E questo è, direi, più che abbastanza per la nostra oretta scarsa di tempo che abbiamo per questa trasmissione. Va bene, allora ci ascoltiamo gli Psicomodo Pop con Domovine Sin. Domovine Sin, sì, sei Psicomodo Pop, il gruppo glam punk croato zagabrese, non mi ricordo di che album sia questo pezzo qua, però ce lo andiamo a sentire volentieri. Psicomodo Pop. We'll be right back. suoniamo sull'assolo dei Psicomodo Pop. Questo pezzo che mi è passato al comitato di censura, alla fine è stato approvato dal Domo Vine Sin, Naplatite Misrak, dice fate impagare anche l'aria, parla un po' della Croazia contemporanea. Questo brano dei Psicomodo Pop, un gruppo un po' glam, un po' alla New York Dolls, un po' alla Heartbreakers. Bene, direi che non perdiamo tempo in chiacchiere, dobbiamo sentire questa intervista abbastanza lunghina, no? Una decina di minuti. Sì. Intanto appunto volevo così fare un resoconto di quello che è accaduto nell'ultima settimana. Ecco, facciamo un passo indietro, Per... andiamo a parlare un attimo di alluvioni, perché comunque non vorremmo fare come tutti i media che danno l'allarme all'inizio e poi si dimenticano. Adesso in realtà la gente è cominciata a tornare a casa, però comincia il vero problema, ovvero la ricostruzione. Infatti sono passate più di due settimane dal 15 maggio e nelle città più colpite dalle inondazioni, ovvero Magla, Idobo e Bielina, gli abitanti cominciano a tornare e fanno i conti con i danni provocati dall'acqua. Fra i rifiuti e il fango si comincia a pensare ovviamente al dopo. La prospettiva non è più quella del pronto intervento, ma della ricostruzione. Ed è forse questo il momento più delicato e più tragico della catastrofe, anche se è una tragicità silenziosa che si vive giorno per giorno. Si tratterà ora di far ripartire il paese, un'impresa che, viste le prime cifre a disposizione, sembra disperata. Per il momento si parla di circa 2 miliardi di danni, anche se per le cifre ufficiali bisognerà aspettare ancora un po' di tempo. I danni all'agricoltura, soprattutto nella regione della Polshavina, sono incalcolabili. Una grande porzione del bestiame è annegato e in molte aree il suolo ora potrebbe essere contaminato per i liquami e i rifiuti che vi si sono depositati. I contadini dunque sono di fronte a un dilemma: hanno ancora due settimane di tempo per piantare nuove sementi e non perdere il raccolto, ma in così poco tempo non è possibile analizzare il terreno e capire se è inquinato oppure no, quindi occorre rischiare. Quindi le tossine entreranno nella filiera alimentare. Molto probabile, molto probabile. C'è già stato in Serbia l'anno scorso quel problema della tossina alfa o qualcosa del genere, che è stata ritrovata nel latte e che è poi è entrata nella filiera. C'è stato anche un ritiro del latte dal commercio per un mesetto, qualcosa del genere, proprio un anno fa. Esatto, noi eravamo ancora lì e bevevamo latte. Questo io mica tanto. Sì, questo è il problema, è anche quello delle epidemie che cominciano sicuramente a dilagare in tutte le zone. Ma si può parlare veramente di epidemie? Non ci sono fonti ufficiali per il momento, però insomma le fonti ufficiose parlano di epidemie per coloro i quali non si possono permettere di comprare l'acqua al supermercato e quindi devono ricorrere all'acqua del rubinetto di casa. E comunque i danni totali provocati dalle alluvioni e dalle frane non sono ancora calcolabili, appunto, ma ci sono alcuni indicatori preoccupanti che cominciano a dare un'idea delle dimensioni della perdita subita dall'economia del paese. Danni alle infrastrutture, strade e ferrovie della sola federazione, una delle due entità del paese, ammontano 27 milioni di euro. Quasi 900 case sono state distrutte, mentre altre 6.150 danneggiate. A Magla le inondazioni lasceranno senza lavoro circa 2.000 persone. Ad Oboj, la città dove il bilancio è stato il più pesante a livello di perdite umane, circa 5.000 attività commerciali sono state cancellate, secondo le stime ONU. E i soldi per la ricostruzione non arriveranno in fretta. Secondo le prime indiscrezioni, la stima dei danni reali sarà pronta soltanto fra due settimane. I primi fondi davvero sostanziosi, con ogni probabilità, non arriveranno che dopo l'estate. Ma la domanda è: dove erano e cosa facevano le istituzioni bosniache mentre il paese veniva sommerso dal fango? La domanda ora che la confusione e la fretta degli ultimi 15 giorni sembrano essere passate è ineluttabile. Per chiunque è assolutamente impossibile cercare di far fronte a questo tipo di emergenza prima che si verifichino, e il governo non può influenzare la quantità di pioggia caduta, dichiarava Dodik, il presidente della Repubblica Srpska, nelle ore successive all'inizio dell'emergenza. Una tale sciagura era prevedibile, si chiedeva alla gente, e la risposta delle autorità è stata efficace? In realtà le grandi alluvioni non sono state inaspettate, non sono giunte inaspettate. Notizie di situazioni di emergenza e di zone allagate erano già state riportate 10 giorni prima dell'emergenza, il 5 maggio a Priedor. 180 case vengono inondate dall'Una, che strarifa. Nello stesso giorno comincia già a creare preoccupazioni il livello della Sava, soprattutto nella zona di Bielina e di Brčko, dove il fiume Esonde allaga un centinaio di abitazioni. Di un allarme meteorologico nel nord del paese, in particolare nella regione di Banjaluka, si parla già a partire dal 3 maggio. Il 13 maggio, quindi 24 ore prima della catastrofe, gli uffici meteorologici delle due entità avevano già diramato un bollettino molto allarmato nel quale si evidenziava la possibilità concreta di alluvioni nella zona di Maglaj. Gli unici a tenere d'occhio le notizie però sono in effetti gli abitanti. 24 ore prima che la città fosse sommersa, a partire dal mattino del 14 maggio, hanno cominciato a ricevere una miriade di telefonate dagli esperti che erano sul luogo. E a partire da quel momento hanno lanciato un avvertimento all'istituto idrometeorologico, hanno ripreso il livello dei fiumi che continuava a salire, ma dalle autorità non è giunta nessun tipo di allarme fino alle 8 di sera. A quel punto, dopo una telefonata drammatica da parte degli uomini sul campo, è stato annunciato lo stato di emergenza. Questo avveniva verso le 9 di sera di mercoledì 14 maggio e a quel punto la Bosna aveva già inglobato parecchie centinaia di metri di centro cittadino. Dove sono i politici bosniaci mentre il paese viene invaso dalle acque e più di un milione di cittadini, secondo quanto detto dal premier Vjekoslav Bevanda? Bevanda si chiama il premier? Si chiama Bevanda, sì. Bevanda nel dialetto della costa vuol dire acqua e vino. Esatto. Vabbè. Né acqua né vino. L'ero perso, ma quando l'hanno eletto, vabbè, erano ubriachi quando l'hanno eletto. Quindi, secondo il premier, sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni, appunto, dove erano questi politici. Il primo ministro è a Mostar per il fine settimana, ricostruisce sarcastico il settimanale sarajevese Dani, come se si trattasse non delle alluvioni più spaventose della nostra storia, ma di una perdita del gabinetto di casa. Bakir Izetbegovic, il membro bosniacco della presidenza, va in visita a Maglaj, definisce la situazione deprimente e se ne ritorna a Sarajevo in elicottero. I politici dei principali partiti croati sono a Blajburg in Austria a commemorare l'eccidio avvenuto ai danni dei propri connazionali sul finire della seconda guerra mondiale. Mentre Dodik, per tutta la durata dell'emergenza, avrà più a cuore la salvaguardia dell'autonomia della Repubblica Srpska che la sicurezza dei propri cittadini, preoccupandosi soprattutto di evitare l'ingerenza di Sarajevo. Così, nelle ore più drammatiche della crisi, se ne vola a Belgrado per incontrare il primo ministro Vucic e per ribadire che l'accordo di Dayton non si tocca. Tornato a Banjaluka, di fronte alle domande di un giornalista che cercherà di sapere perché il governo non stia facendo nulla e perché non siano state prese misure dopo l'alluvione del 2010, il presidente della Repubblica Srpska cercherà di difendersi rispondendo: lei è davvero maleducata. Quindi, qualora esistessero dei dubbi su quali siano le verità, le effettive priorità di Dodik, soltanto qualche giorno fa si era premurato di ribadire che le alluvioni non hanno assolutamente intaccato la frontiera tra le due entità. La nostra solidarietà, dice, va anche ai cittadini della Federazia, ma quanto accaduto non può essere la base per la riunificazione del territorio della Bosnia-Erzegovina. Non sia mai. A completamento di un quadro surreale e grottesco, le due entità proclameranno anche giorni di lutto in date separate. E molto lungo e molto interessante l'articolo, quindi, da cui ho tratto questo estratto. Si intitola Bosnia-Erzegovina dopo il diluvio, di Andrea Denoni, lo trovate su Osservatorio Balcani, quindi andatevelo a leggere, perché questo era solo un estratto dell'articolo. Benissimo. Andiamo... ecco, proprio perché a causa di questi disastri mi è venuto in mente di parlare oggi delle brigate di lavoro, delle radne akcie che servivano per ricostruire il paese dalla sciagura della guerra, non naturale questa volta, ma anche successivamente per fronteggiare i disastri naturali come i terremoti. Sappiamo che i Balcani sono una zona sismica, ci sono stati terremoti disastrosi a Banjaluka, Skopje, in Montenegro, a distanza distanza di un decennio, 10-15 anni uno dietro l'altro. E quindi poi dopo l'intervista di Eric andremo un po' a parlare di questa cosa, delle brigate di lavoro, delle radnaxie. Ma adesso ci ascoltiamo Rambo Amadeus. Ci sentiamo Rambo Amadeus, Euro Neuro, con la quale ha partecipato all'Eurovision Festival, che intanto tiriamo fuori ultimamente, nel 2012, dove c'è questo video divertente con l'asino che gli sta appresso a questo personaggio, a Rambo, e gli ruba gli euro dalla tasca. Siccome adesso voglio dirlo a microfoni aperti, intanto voglio salutare il tuo papà Dragan, che ha suonato tanti anni con Rambo Amadeus, di cui possiamo dire è un amico, no, di Rambo Amadeus. Sì, sono concittadini. Anche quasi coetanei. No, beh, coetanei no, un bel po' più giovane. Adesso possiamo chiamarlo Tony, si chiama Tony Antonie. Sì, un bel po' più giovane. E sì, hanno suonecchiato qualche volta insieme. Anni fa, agli esordi della sua carriera, veniva anche a prendere lezioni di chitarra. Ma questo 30 anni fa, insomma, alla fine degli anni 80. Bene, allora raccontaci l'aneddoto della... No, dai, lasciamo perdere gli aneddoti familiari, ci andiamo a sentire Rambo Amadeus con Euro Neuro, e dopo ci sentiremo l'intervista con Neri Gobetti, che penso apprezzerà questo brano. È l'inventore del turbo folk, cioè del termine, del concetto del turbo folk, almeno così vanta Rambo. Sentiamo. Beh, almeno allora andatevi a vedere il video su YouTube, così vedete l'asinello di cui tanto abbiamo discusso. È molto trash il video, quindi Euro Neuro. Skeptic, hermetic, pathetic, analphabetic, forget old cosmetic, you need new poetic, aesthetic, eclectic, dialectic. Don't be dogmatic, bureaucratic, you need to become pragmatic, to stop change climatic, automatic, need contribution from the institution, to find solution for pollution, to save the children of the evolution. Snobism, nationalism, puritanism, I am different organism. My heroism is pacifism, altruism, I enjoy bicyclism, liberalism, tourism, nudism, optimism, it is good for all of this. Neuro, I got no ambition for high position in competition with air conditioning. Different mission, different school, I got only one rule, always stay cool like a swimming pool. Di Rambo Amadeus. Adesso ci puoi raccontare l'aneddoto dell'asinello? L'anello dell'asinello? Ah sì, perché voleva portarsi l'asino del video lì a... Dov'è che era? Eurovision Festival? Era in Georgia? In qualche paese lì tra il Mar Nero e il Mar Caspio? Beh, adesso guarderemo appunto Forse era in Georgia, nel 2012 era tipo in Georgia, non vorrei dire una cazzata, mi sembra. Non solo, ma lui, io penso che se lo sia portato sul palco, ma io penso non che... l'ha portato, voleva, ha insistito di portarsi sto asino che doveva far parte della scenografia. Della scenografia, ma non gli hanno permesso e ha dovuto accontentarsi di un asino di cartone e legno, tipo. Poverino. Quindi niente. Io votavo per l'asino. Comunque magari gli animalisti poi si lamentavano che, no, mica... che maltrattava gli animali, che portandoli in mezzo a una situazione stressante per loro. Va bene, va bene, allora andiamo a introdurre l'argomento che ci porterà appunto a questa intervista telefonica dopo il prossimo pezzo con Eric Gobetti. Ho tratto appunto questo racconto da un articolo sempre di Osservatorio Balcani intitolato La grande guerra divide gli studenti dei Balcani, che vi invito a leggere sul sito. 100 anni dopo l'assassinio di Sarajevo, nelle scuole dei paesi dell'ex Jugoslavia si insegnano storie molto diverse sulle cause alla base dello scoppio della guerra del 15-18 o 14-18. Un punto di vista condiviso sembra quanto mai lontano. Infatti Salid Mehmedovic afferma: quelli erano terroristi, Gavrilo Princip e tutti gli altri come lui. Appunto in piedi vicino al ponte latino Sarajevo, dove il giovane serbo-bosniaco Princip sparò a morte l'arciduca Francesco Ferdinando d'Austria-Ungheria 100 anni fa, esattamente 100 anni fa, un assassinio che segnò l'inizio di 4 anni di un devastante conflitto. Mehmedovic, bosniacco, dice di non avere dubbi sul fatto che la Serbia fosse la responsabile per quell'assassinio. Hanno fatto quel che hanno fatto su ordine della Serbia, questa è l'ultima responsabile per la guerra, sottolinea Mehmedovic. I paesi dei Balcani si preparano a commemorare quest'estate il centenario dell'inizio della prima guerra mondiale, ma in ognuno di essi si forniscono agli scolari e agli studenti diverse interpretazioni sull'omicidio che segnò l'inizio del conflitto. Allora andatevi a leggere questo interessante articolo di Denis Gigic, Maria Ristic, Milka Domanovic, Josip Ivanovic, Edona Peci e Siniša Jakov Marušić su osservatoriobalcani.org. Adesso andiamo ad ascoltare un pezzo degli Austor Uzalud Pitas e poi subito l'intervista a Eric Gobetti su Sarajevo Rewind, che è appunto un progetto legato proprio al centenario dell'assassinio sul ponte di Sarajevo. Da je sve to igra, što sam ja zbog tebe sam. Što ćeš sada kad si stigla do zida, a doma nema goluba da te miluje. Neće proći, ljubav ne igre, one ne vide. I nikad neće moći, sve dok samo strane ostane. Teška se kira. za mjazno tebe sam. A što ćeš sada kad si stigla do zida? Vrijeme se sprema, a doma nema goluba da te miluje. Stari stražari sjevaju, kroz tvoj se prozor samo ja blagri vide. Daleki momci pjevaju, uzal pita što ide, uzal pita što ide, uzal pita što ide, uzal pita što ide. Ok, siamo in collegamento telefonico con Eric Gobetti direttamente da Torino, che non è potuto venire nei nostri studi a registrare la puntata insieme a noi e quindi l'abbiamo chiamato telefonicamente. Ciao Eric. Ciao. Come va? Tutto bene? Tutto a posto. Benissimo, allora Eric è uno dei nostri ascoltatori più fedeli, quindi ci fa anche piacere sentire la sua voce. Ti abbiamo chiamato questa sera per parlare di Sarajevo Rewind 2014-1914, un progetto che hai ideato tu insieme a un tuo collaboratore e di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata. Volevamo sapere qualcosa di più riguardo a questo progetto, ce ne puoi parlare? Sì, certo. Ma è dunque un progetto che riguarda la, diciamo, una rievocazione in qualche modo storica dell'attentato di Sarajevo, di cui quest'anno ricorre appunto il 100° anniversario, e l'idea che abbiamo avuto è quella di ripercorrere i tragitti compiuti da Gavrilo Princip, l'attentatore di Sarajevo, da Belgrado e dalla vittima dell'attentato, ovvero Francesco Ferdinando da Vienna, per arrivare a Sarajevo proprio il 28 giugno. E quindi percorreremo appunto questi due viaggi seguendo proprio le tracce originali dei viaggi compiuti all'epoca per arrivare appunto a Sarajevo, incontrarci il 28 giugno. Ho capito, per i più curiosi possiamo sapere quali sono le tappe di questo viaggio? Quindi il viaggio sia di Gavrilo Princip che di Francesco Ferdinando? Sì, dunque sulla mia pagina Facebook e sul blog che abbiamo aperto, la pagina Facebook si chiama Sarajevo Rewind 2014-1914 e il blog invece è Sarajevo 14, ecco, su entrambi i supporti informatici si può vedere anche la mappa dei tragitti percorsi. E niente, Gavrilo Princip appunto è partito da Belgrado in realtà già il 28 maggio del 1914, esattamente un mese prima dell'attentato, e ha fatto la prima tappa, è stata Šabac, che è una località sulla Sava, e poi Loznica, ancora in Serbia, e dopodiché ha attraversato il confine clandestinamente sulla Drina, attraversando la Drina, e poi è passato da Tuzla e da Tuzla ha preso il treno per Sarajevo. Okay. E invece dall'altra parte Franz Ferdinand è partito da Vienna e è andato in treno a Trieste, poi a Trieste si è imbarcato su una nave militare che è sbarcata a Metković in Croazia, sulla costa dalmata, e da qui ha preso il treno, una linea ferroviaria che esiste tuttora, che era stata inaugurata da pochi anni all'epoca, che è appunto dal porto fluviale di Metković, sulla Neretva, le facce della Neretva, segue poi per Mostar e arriva fino a Sarajevo. Ho capito. Ho letto su Osservatorio Balcani un articolo che parlava proprio del fatto che la figura di Gavrilo Princip viene interpretata in modi molto diversi nelle varie repubbliche, da parte della storiografia ufficiale, nelle varie repubbliche che compongono l'ex Jugoslavia. Non so se ti è capitato di leggere lo stesso articolo. Sì, ma ho letto quello, anche altri articoli, poi mi sono fatto l'idea, insomma, nei miei viaggi precedenti, che come sai sono un abitué di viaggi balcanici, faccio. E il mio bestseller Nemo Problema è noto in tutto il mondo. Tradotto in 25 lingue. Esatto, tutto in piemontese veramente, però sono tutti dialetti di Piemonte. No, vabbè, insomma, a parte gli scherzi, no, beh, certo, effettivamente la figura di Camillo Quintino è interessante, perché mentre, come dire, Francesco Ferdinando è un personaggio tutto sommato insignificante nella memoria dell'evento e non ha mai avuto un qualche peso, diciamo, dell'immaginario collettivo di nessun paese del mondo. Mentre invece Gavrilo Princip sì, cioè è diventato per gli anni dell'esistenza dello Stato jugoslavo una sorta di eroe del risorgimento jugoslavo, dell'unificazione dello Stato, un po' come i nostri eroi risorgimentali, diciamo, per l'Italia. E ora che non c'è più la Jugoslavia, naturalmente questa figura in qualche modo scomparsa ed è rimasta soltanto più presente, diciamo, nell'immaginario serbo, è diventato in qualche modo un eroe serbo dopo essere stato per quasi 100 anni un eroe jugoslavo, quindi di un nazionalismo, diciamo, più ampio di quello semplicemente puramente serbo. Io mi ricordo che a scuola di averlo studiato come anarchico, non so se ti risulta in Italia che sia stata appiccicata questa etichetta, che a me poi dopo tanti anni mi è risultata un po' stretta, no? Sì, beh, in realtà può benissimo essere, perché in queste cose le imprecisioni sono molto diffuse, purtroppo. In realtà lui non è mai stato anarchico, era esplicitamente un nazionalista jugoslavo, nel senso che proprio lottava per l'unificazione dei popoli jugoslavi in un'unica patria, e peraltro la sua prima dichiarazione proprio appena arrestato è stata proprio quella: io l'ho fatto per creare uno Stato jugoslavo, insomma, in un'ottica jugoslava, non è mai stato anarchico. Va detto che però nei primi, tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, gli attentati anarchici e terroristi anarchici che colpivano spesso imperatori, re, presidenti, insomma, ci sono stati diversi attentati in quell'epoca ed erano tutti di matrice anarchica, quindi è comprensibile che ci sia stata questa confusione. Ad esempio la principessa Sissi è stata uccisa da un anarchico italiano pochi anni prima. Certo. Ascolta Eric, ma noi sappiamo che dopo domani sera, ovvero il 5 di giugno, ci sarà una serata dedicata proprio a Sarajevo Rewind. Sappiamo proprio tutto, eh? Sappiamo tutto. Non vi sfugge niente. No. Sono informatissima. Ci dai qualche dritta per venire a trovarti? Sì, dunque, allora giovedì sera presentiamo alla libreria Trebisondo, San Salvario, via Sant'Anselmo 22, presentiamo il progetto, farò vedere un breve trailer, diciamo, del progetto, perché poi il progetto, questo non l'ho detto, è l'obiettivo terminale, quello di fare un documentario di questi nostri due viaggi, di questa avventura, e quindi verremo seguiti dagli operatori e cercheremo di fare un lavoro il più possibile efficace per raccontare questa storia, e per cui appunto presenteremo questo breve trailer e poi, insomma, racconterò un po' di storie legate a questi due viaggi, sia dal punto di vista proprio storico di cosa è capitato all'epoca, sia del, appunto, il significato anche nella memoria, nei paesi attuali post jugoslavi di quell'evento, insomma. Ho capito. E siccome io so, perché sono informatissima, tu mi ricordi, che il viaggio, se non sbaglio, di Gavrilo Princip passò anche da Loznica, o comunque proprio dalle zone che sono adiacenti alla Drina, quindi al confine fra la Bosnia e la Serbia, e che in questi giorni, ovvero due settimane fa, ne abbiamo parlato tanto nelle scorse puntate, sono state alluvionate. Allora certo. Colgo l'occasione per così erigerti a sponsor dell'attività della serata di domani sera, organizzata, se non sbaglio, dal collettivo Azione Pace. Sì, esatto. Sì, in realtà noi, il nostro progetto, come dire, che è nato come progetto puramente culturale, in qualche modo ha avuto una deriva umanitaria, nel senso che nelle settimane scorse, appunto, c'è stata questa terribile alluvione, sicuramente i tuoi ascoltatori sanno perfettamente di cosa stiamo parlando, che ha colpito appunto questi territori, in particolare proprio quelli a cavallo tra Serbia, Bosnia e Croazia, quindi sia sulla Sava, sia sulla Drina, sia la zona di Shabat, sia la zona di Loznica, che appunto sono lungo il tragitto del viaggio di Gavrilo Princip, sono stati duramente colpiti. E questo ci ha spinto a in qualche modo metterci a disposizione per portare aiuti possibilmente mirati, nel senso, noi andremo lì con un camper, quindi c'è la possibilità di portare alcune cose magari a famiglie specifiche che sono in difficoltà, piuttosto che a associazioni che conosciamo direttamente. E a questo proposito, appunto, domani sera è prevista una grande serata di solidarietà con gli alluvionati di Serbia e Bosnia, che si terrà in via Passobuole, dunque vediamo 29, esatto, via Passobuole 29 al CH4 Sporting Club di Torino, ed è una serata varia in cui diversi attivisti, diciamo, balcanici e balcanofili si sono messi a disposizione, quindi ci sarà una presentazione di libri con Marco Travaglini, Donatella Sasso, Fabio Malagnino, un reportage fotografico di Paolo Siccardi, che è un grande fotografo, cosa ha fatto molto durante la guerra in Bosnia, e letture di poesie e letture di brani di letteratura bosniaca a cura di Vesna Šepanović, che molti di voi sicuramente conosceranno, conosciamo. E anche un intervento di Claudio Canal, quindi insomma più cose, e tutto questo condito anche da un aperitivo balcanico dal costo di 10 euro, e ovviamente questi soldi sono raccolti apposta per portare aiuti poi nei Balcani colpiti dall'alluvione. Benissimo, allora ricordiamo i due appuntamenti: uno appunto il giovedì 5 giugno alla libreria Trebisonda alle ore 21, mentre invece il secondo domani sera 4 giugno 2014 al CH4 Sporting Club di via Passobuole 29 alle ore? Dunque dalle 19.30 in poi fino a tarda sera, insomma. Benissimo, allora vi aspettiamo tutti quanti lì. Io, Eric, ti saluto e ti mando un abbraccio. Ok, questa era quindi un'intervista con Eric Gobbetti, uno storico specializzato proprio nella storia moderna dei Balcani e in particolare della Jugoslavia. Quindi adesso cambieremo l'argomento, vi teniamo sicuramente aggiornati sull'andamento di questo progetto, di questo documentario tutto in divenire, che appunto sarà finanziato soltanto con il crowdfunding, e quindi completamente autofinanziato, ma potete andare a visitare il sito che ha menzionato nell'intervista, Sarajevo 14, adesso non mi ricordo più se era su Blogspot, credo di sì. Caso trovate tutte le informazioni sul nostro gruppo Facebook, che ricordiamo Balkan Rock at My Radio. Adesso andiamo a sentire un brano e poi parliamo un po' delle brigate di lavoro, dei decenni passati. Questo è un gruppo electro qualcosa, Electro Clash. Electro Trash. 6th June, da una compilation uscita un paio d'anni fa, 2-3 anni fa, che si chiama Električna post-Junebriga. Vero? Tradurre un gioco di parole del genere, la strafottenza elettrica della post-Jugoslava, qualcosa del genere, sì. 6th June, Russian Sun, un brutto sogno. My true feelings, my true side. When I talk, say what you like, but don't be foolish, I'm just a liar. When I kiss, it's for myself, but let's just learn, stay safe. Sfumiamo questo brano un po' pacchettino, sbarazzino, dei Six June. Valentino mi fa le facce. Non faccio nessuna faccia. Mi fa le facce, non le piacciono questi generi electro. Vabbè, pazienza, ogni puntata è un putpourri di roba di oggi e di ieri. Allora, e di domani anche, un po' futuristica. Parliamo quindi delle brigate di lavoro. Le brigate giovanili sono nate durante la Resistenza, durante la Seconda Guerra Mondiale, appunto. Ne vorrei parlare appunto per il gioco di associazioni, il disastro, la mobilitazione, il lavoro volontario per mitigare gli effetti delle alluvioni. E quindi il pensiero va al passato, va ai decenni passati. Quindi si diffusero nell'immediato dopoguerra queste iniziative, avendo avuto come obiettivo la ricostruzione del paese. In particolare la forza lavoro, il lavoro volontario veniva impiegata per la costruzione e ricostruzione delle infrastrutture, dei centri sportivi, centri culturali, scientifici, dei quartieri nuovi o addirittura delle città sorte quasi dal nulla, o se non dai ruderi. Le più imponenti brigate di lavoro si sono svolte nel periodo dal 46 al 52. Come giorno ufficiale delle brigate di lavoro, delle Radne Aktie, come abbiamo detto, è stato nominato il 1 aprile, che era, coincideva appunto, era l'inizio dei preparativi della costruzione della ferrovia Brčko-Banovići in Bosnia, appunto iniziata nel 46. L'idea di queste Radne Aktie è nata durante la guerra di liberazione, in cui si erano formate queste unità di supporto alla resistenza, composte da giovani, da giovanissimi che non potevano combattere, ma facevano altro, si occupavano di raccogliere materiali, viveri, di dare supporto logistico dove serve. E durante la Repubblica di Užice, cosiddetta una città della Serbia che poi è stata chiamata Titovo Užice, Užice di Tito, no, al contrario, prima è stata chiamata Titovo Užice, adesso si chiama Užice. Io sto parlando, sono ancora negli anni 40, Vale, sono ancora nel 41. Ah, okay. Quello era la prima area liberata dai partigiani dopo l'invasione, il bombardamento del 41. Quindi ci fu un insurrezione e fu proclamata Repubblica di Užice, e quindi proprio lì ci fu la prima vera e propria brigata di lavoro, in cui un gruppo di 150 ragazzi e ragazze nell'ottobre del 41 si recò verso Visegrad e Dobrun, verso la Bosnia, quindi per la raccolta di gran turco. Nel 42 poi crescono queste iniziative in tutta la Jugoslavia, e nello stesso anno viene ricostruita la ferrovia Drvar-Ključ e costruita una strada tra Glamoč e Rore. Il numero dei partecipanti crescendo raggiungeva anche migliaia di persone. Dopoguerra, nei primi anni del dopoguerra, si lavorava in condizioni pesantissime, veramente mal vestiti, mal nutriti, a volte persino senza acqua potabile, tutto era distrutto. La prima grande brigata di lavoro viene impiegata per la costruzione della ferrovia Brčko-Banovići nel 46, che dicevo prima, e vede la partecipazione di 62.268 giovani per la costruzione dei 90 km di ferrovia. Durante la stessa viene inviata una lettera al maresciallo Tito, in cui viene promesso che i lavori sarebbero finiti entro il 29 di novembre del 46, la data simbolica, ne abbiamo parlato qualche puntata fa, era l'anniversario della Repubblica di Aiz, cioè della proclamazione della Jugoslavia, della Repubblica Jugoslava Socialista, della Federazione Socialista. Durante queste brigate di lavoro chiaramente scarseggiavano tutti i tipi di mezzi e macchinari, cioè quindi il grosso dei lavori veniva, per il grosso dei lavori venivano impiegate semplicemente le braccia. Erano stati scavati 1.360.000 metri cubi di terra con 3 tunnel dalla lunghezza complessiva di 600 metri. I lavori furono terminati 22 giorni prima della data stabilita, del 29 novembre, e il primo treno che partì da Banovici verso Belgrado portava la scritta che diceva questo: noi costruiamo la ferrovia costruisce noi. Questi sono slogan real socialisti che sono andavano all'epoca. Tra l'altro oggi mentre sfogliavi le pagine internet per recuperare informazioni e curiosità sulle Radnéak, le brigate di lavoro, vedevo delle foto meravigliose e mi commuovevo tantissimo. Sì, adesso sì, vorrei farle vedere ai nostri ascoltatori. Ci sono dei ritagli, ho trovato un blog bellissimo che si occupa principalmente di pubblicare i ritagli dei giornali dell'epoca con delle tematiche importanti, salienti, rappresentative di quel paese. Ecco, dopo magari andiamo a dare un'occhiata, almeno a leggere lo spezzone di qualche intervista ai giovani volontari che partecipavano alle brigate di lavoro. Adesso vediamo se facciamo in tempo. Poi vabbè, dopo c'era anche la costruzione della ferrovia Shamat-Sarajevo, dove la partecipazione era ancora maggiore, c'erano più di 200.000 persone che lavoravano. Poi ci fu la costruzione delle fabbriche, delle industrie, acciaierie, la costruzione dell'autostrada Bratstvo-Jedinstvo, autostrada Unità e Fratellanza, quella che collega Ljubljana, Zagabria, Belgrado, poi giù fino a Niš, fino al confine con la Macedonia. Quindi vabbè, questa autostrada poi è stata costruita in due tappe, la prima che collegava Zagabria e Belgrado subito dopo guerra, e poi c'è stata la seconda parte che è stata costruita nei primi anni 60. Poi c'è stata una seconda ondata alla fine degli anni 60 di queste iniziative, promosse chiaramente dal governo, promosse dal regime di allora, che però godevano di un grande consenso, anche perché soprattutto successivamente, quando è passato questo periodo durissimo in cui si sentiva ancora il peso della responsabilità in seguito alla resistenza di ricostruire il paese, di mettercela tutta, è diventato qualcos'altro la Radnaktia. Cosa è diventato? È un'opportunità per socializzare. Sì. Per stare con i propri coetanei, per baccagliare, come diresti tu. Perché tu come diresti? Per cuccare. Tu sei proprio vecchio, cuccare non si dice più dal 1915. Vabbè. Lo diceva Gavrilo Princip, forse. Vabbè, a me piace. Mi piace il gergo di Gavrilo, allora. Per imparare delle cose, perché dopo le mattinate di lavoro poi erano previste altre attività culturali, i corsi di formazione negli anni 50 e 60, anche di alfabetizzazione, perché c'era ancora un altissimo tasso di analfabeti. E invece negli anni 70 era anche appunto un'occasione, cioè si suonava, c'erano anche dei gruppi che venivano a suonare, fare un po' di intrattenimento, c'erano i corsi per, che ne so, per gli radioamatori, piuttosto che per, si poteva prendere anche la patente, forse c'era anche l'autoscuola, in alcune, un sacco di roba, insomma. Come i Boy Scout, insomma, un po'. Un po' sì, c'è qualcosa che può ricordare anche anche lo scautismo, sì. Abbiamo tempo per un altro pezzo oppure... Ma sì, sì, abbiamo tempo. Poi andiamo a leggere le interviste con i giovani. Mi viene da dire brigadieri, ma è bruttissimo, perché brigadiere è un anche grado. Anche brigatisti non è male. Brigatisti, esatto, sono indeciso tra brigatisti e brigadieri. Vabbè. I giovani boy scout, insomma. Chi sono questi? Un altro pezzo che non ti piacerà. Che però è già passato. È il pezzo di prima, no? Esatto, il pezzo di prima. Il pezzo è di prima. Rouge and Sun. No, ma io forse ho sbagliato qualcosa. Allora, sono... Questo è Rouge and Sun, questi sono i Sick June. Invece quel di prima era un altro. Io ho sbagliato. Quel di prima erano Illegal Nemozie. Ho scambiato i brani. Non è chi conosca a memoria questa compilation qua. Sono gruppi nuovi, abbastanza giovani. Quel di prima quindi erano Illegal Nemozie con My True Feelings, il brano in inglese. Invece questi sono Sixth June, Rouge and Sun, ed è una cover di un pezzo punk dei primi anni 80 o fine anni 70, non lo so, dei Paraff, gruppo di Rijeka di Fiume, storico gruppo punk, e questa è una reinterpretazione di questo gruppo electro che andiamo a sentire. John San. Sfumiamo questo pezzo un po' d'archettone, che però era interessante rispetto a quello di prima. Interessante, ma è classico pezzo interessante, non so perché, cioè più o meno lo stesso genere, no? Beh, forse perché c'è la voce femminile. Anche prima c'era la voce femminile, e allora non lo so. Eri distratta, va bene. Allora, parliamo quindi di Radna Akcie. Abbiamo parlato appunto di come si svolgevano negli anni 40 e 50 la grande ricostruzione, grande partecipazione, un po' di ideologia anche. Quindi dicevamo che negli anni 60 è diventata un'occasione anche per socializzare, per imparare qualcosa, per conoscere i propri coetanei delle altre repubbliche. Quindi andiamo a vedere questo blog che ho citato prima, dove ci sono ritagli dei giornali. Questo deve essere dei primissimi anni 80, credo, perché parla, dice che si ricordano la Radna Akcie Sava 68. appunto è qualcosa che riguarda il letto del fiume Sava, adesso non so bene che cosa, ecco, ci volevano un po' di radnaxie per di prevenzione negli ultimi tempi, evidentemente, ricollegandoci a quello che dicevamo all'inizio della trasmissione. Anche in seguito, se fossero le radnaxie a risolvere la questione e non l'ONU piuttosto che le varie organizzazioni internazionali, forse sarebbe più sostenibile. Forse sarebbe più sostenibile, senz'altro. Allora, vediamo un po' ste cose degli anni 60. Priatesto di Liuba, amicizia e amore. Adesso non so che giornaletto è questo qua. Comunque ci sono 20. Priatesto di Liuba. Si chiama così, Priatesto di Liuba, sì, con la bandiera. Deve essere proprio un giornaletto legato alle associazioni che promuovevano le brigate di lavoro. Quindi siamo nel 68. C'erano due grandi brigate di lavoro, quella che appunto è Sava 68 e l'altra di Novi Beograd, dove praticamente fu costruito il quartiere. Il quartiere, sì, oggi una città a sé, un quartiere enorme di Belgrado, oltre il fiume. Andiamo a leggere un po', proviamo a tradurre qualche intervista, cioè le dichiarazioni di questi ragazzini che partecipavano alle brigate di lavoro, quindi siamo nell'anno 68 e sono riportate qui le parole di Yasmin Kashabic. Chissà che fine ha fatto Yasmin Kashabic ai tempi. Sarà dice... diventata una sciampista. Per favore, 17 anni di Belgrado. 17 anni nel 68. Nel 68, precisiamo. Ma quindi sarà in pensione adesso. Può darsi. Dice: od osnovne škole želim da odem na radne akcije. Desidero andare alle brigate di lavoro già dal tempo delle elementari. Jednom sam u savremenoj ženi čitala seriju članaka pod nazivom Dnevnik jedne brigadirke, što je moju želju još pojačalo. Una volta ho letto in Donna Moderna, Donna Contemporanea, che deve essere stata una rivista, sì. Ho letto una serie di articoli dal titolo Il diario di una brigatista, brigadiera. Il quale ha ancora di più aumentato il mio desiderio. Osim toga, moja majka je prije 22 godine bila na radnim akcijama i često priča o tim danima. Oltre a ciò, mia mamma 22 anni fa è stata alle brigate di lavoro e molto spesso parla di quei giorni. Naravno da nije imala ništa protiv kada sam joj rekla da bi i ja željela poći. Što više, oduševila se isto koliko i ja. Certamente non ha avuto niente in contrario quando le ho detto che avrei desiderato anch'io andarci, anzi si è rallegrata, altrettanto come mi sono rallegrata io, questo proprio non si può. Vabbè, dai, te lo perdoniamo, sentire. Te lo perdoniamo. Eto, sad sam već punih 10 dana brigadirka, imam već žuljeve iskustva, ali nisam se pokajala. Ecco, adesso ho già sono già 10 giorni pieni che sono appunto parte di queste brigate, ho già i calli e un po' di esperienza, ma non mi sono pentita. Sretna sam što sam ovdje, čini mi se da sam odabrala najbolji način da provedem ljeto. Sono contenta di essere qui e credo di aver scelto il modo migliore di passare la mia estate. Ecco, a questo punto sono interviste in cui chiedono ai partecipanti di queste azioni perché hanno deciso di passare l'estate lavorando. Come vedete, grande entusiasmo. Ne leggiamo un'altra? Leggiamone un'altra, che sono già pendente da questi. Ci sono queste bellissime foto, no? Guardate un po', no? Con questi giovanissimi che scavano, che si divertono, facce sorridenti, bandiere rosse, entusiasmo. Io non posso dire per radio quello che penso, vero? Perché? Perché non si può parlare per radio di del mondo real socialista che vorrei io. Ma perché no? Non, su questo il comitato di censura non si esprime. Il comitato di censura è solo musicale. Bene, meno male. Allora io, ecco, metterei un sacco di radneazie in tutto il nostro bel paese. Altro che. Allora, chi scegliamo adesso? Vediamo un po'. Andiamo con Juric, Xenia. Un'altra ragazza? Sì. Ma avranno perso verginità durante queste brigate di lavoro? Ecco, questo non si può dire perché siamo ancora in fascia protetta. Ma che fascia protetta? Non siamo mica la RAI. Xenia Juric, Subotica, di Subotica, della Vojvodina, učenica medicinske škole. Quindi questa è già un po' più grande, forse. Ah no, medicinske škole probabilmente si intende comunque superiore, quella... scuola professionale. Esatto, sì, sì. Već odavno želim da sudjelujem u radnim akcijama. Già da molto tempo desidero di partecipare alle radne akcije, alle brigate di lavoro. Govorili su mi da to nije mjesto za djevojke. Mi dicevano che questo non era un posto per ragazze. Međutim, sad tek vidim koliko je to glupo. Nisam vjerovala, pa sam i došla. Però adesso vedo quanto era stupida questa affermazione, non ci credevo e quindi sono venuta. A sad mogu reći da se tu svako, možda prvi put u životu, osjeća odgovoran za sebe i svoje postupke. E quindi adesso posso dire che qui chiunque, forse per la prima volta nella propria vita, si sente responsabile per se stesso e per le proprie azioni. A ako se radi i o ljubavi, šta tu ima loše? E se si tratta di amore, che cosa c'è di male? Obično ljetovanje na moru svakako donosi više iskušenja. In ogni caso, spesso le vacanze al mare certamente portano più esperienze. Quindi Xenia più... probabilmente... Non è più esperienza, iskušenja. Ah, scusate, cos'è? Ma vabbè, dai, tentazioni, lascia... tipo più tentazioni. Ah. Perché probabilmente, vabbè, qua sono tagliate le domande, magari c'era qualche domanda maliziosa, ma allora i ragazzi qua e là, e lei probabilmente voleva dire non è che è qua ci sono più tentazioni, magari se vai a vacanza al mare, che non qua, dove certo. Comunque siamo tutti bene. Brava Xenia, brave tutte tutte le ragazze, tutte le compagne delle radne akcie, delle brigate di lavoro. Dovremmo prendere un po' di esempio e andiamo a ascoltarci il prossimo pezzo. Per il prossimo pezzo vuoi dire la chiusura, insomma sono le 22 e purtroppo sì, io avevo altre notizie, perché è rimasto qualcosa, cioè volevo chiederti Valentina, durante queste iniziative di salvataggio e appunto di azione di volontariato per fronteggiare l'alluvioni, sarà rimasto qualcosa dello spirito delle radne akcije? Che comunque i cinquantenni di oggi c'erano lì, no? Nei centri di accoglienza o comunque anche nella protezione civile, qualcuno avrà vissuto quel periodo. Sarà rimasto qualcosa? Beh, io me lo auguro e sicuramente questo rimane nell'esperienza delle persone. Il problema, o comunque se vuoi la domanda, è che il momento in cui questa era una prassi statale comunque del paese, sicuramente il paese era responsabile e autosufficiente per se stesso e per le proprie necessità, mentre in ogni caso oggi, come dicevamo prima, il paese non lo è più, deve chiedere aiuto all'esterno e questo è triste. Bene, ma comunque ho visto addirittura che c'è un forum con centinaia di partecipanti da tutti i paesi dell'ex Jugoslavia dedicato proprio a quello, cioè un forum di 40, 50, 60 anni sì, che parlano delle loro esperienze, cioè che nasce proprio intorno a questo, cioè per parlare, scambiarsi e ricordare queste esperienze dove sono nate appunto amicizie, anche amori, come dicevamo prima, un'esperienza forte. Poi non sarà stato tutto rose e fiori, anche lì magari c'erano delle situazioni un po' gerarchiche, un po' di magari qualche forma di nonnismo, qualcosa del genere. Ma questo c'è nella vita comune di ogni persona, dalla scuola al lavoro, quindi insomma non penso che cambiasse molto la situazione. Ecco, poi dipende appunto da situazione a situazione. E quello che volevo dire è che oggi esiste ufficialmente un'associazione che promuove ancora le brigate di lavoro. È un'associazione di Beocin, una cittadina, un paese vicino a Novi Sad in Vojvodina, che in pratica ha portato avanti questa tradizione. Ci sono alcuni volontari, alcuni promotori di queste azioni, di queste brigate di lavoro, che hanno proseguito, sono costituiti un'associazione e tutt'oggi fanno questo tipo di attività. In caso di alluvione, lì vicino al Danubio spesso capita che esonda magari un po', certo, e c'è qualche piccola inondazione, sempre più o meno sotto controllo, però di danni ne fa. Poverini, mi fa molto piacere sapere che esistono ancora delle organizzazioni. E non ci sono solo vecchietti, se stavi per obiettare questo, cioè non sono solo degli ultra 50-60 anni, ma no, conta qualche centinaio di persone. Loro sono partiti come un gruppetto di nostalgici, di vecchietti, poi però si sono, hanno aggregato un tot di persone che si sono impegnate come in un'associazione di volontariato, sì, quando ci sono alluvioni, addirittura nel 2006 no, nel 2000 e non mi ricordo, sto guardando l'articolo, è un articolo di Telegraph, tipo hanno costruito la casa dei bambini che sono rimasti senza genitori, che sono morti, e c'era un servizio su un telegiornale o su una trasmissione, qualcuno di loro ha visto sta cosa, ha detto facciamo qualcosa, questi ragazzi sono rimasti senza niente e nessuno, e gli hanno costruito tipo una casetta. Poi vabbè, quando ci sono le alluvioni al 2006, quindi ha 202 membri, quindi ci sono anche uomini, donne, pensionati, anche liceali, un po' di tutto. Il presidente di questa associazione si chiama Mumovic. Beh, mi sa che siamo veramente in chiusura. Questa volta abbiamo sforato un bel po'. Il comitato di censura, quello ai piani di censura più alti, ci sta tagliando. Quindi dobbiamo salutarci. Questo, magari ritorneremo a parlare di Radne Axie un giorno. Questo era tutto per stasera. Noi vi auguriamo una buona serata. Sì, e vi ricordiamo, anzi, vi annunciamo che ci risentiremo questa settimana. Abbiamo un appuntamento doppio, perché saremo sabato, proprio questo sabato, il 7 di giugno, all'interno di Gru Lab, laboratorio di idee di Grugliasco, la festa dei giovani di Grugliasco, in piazza, con una postazione mobile con la radio, e vi parleremo della musica che ascoltavamo io e Dusko da giovani. Ecco, siamo già a questo punto, da trentenni rincoglioniti che già si sentono privati della propria giovinezza, che devono rimembrare i tempi passati. No, certo che no, ma siccome è la festa dei giovani, si ascolta musica giovane. Facciamo sentire un po' di musica movimentata. Sì. Va bene. Quindi Balkan Rock si trasforma in rock e basta sabato prossimo. Altro che. Allora, cosa ascoltiamo come ultimo pezzo, Dusko? Come ultimo brano andiamo a sentire, scegli tu, vuoi sentire Paraf o Irfan? Dai, lasciamo perdere i Paraf, tanto un bel po' di punk lo faremo sentire questo sabato. Andiamo a sentire Irfan Tahirovic Trio, un trio misconosciuto, tre tizi che hanno registrato questa cosa in una camera. Questo l'ho trovato su jamendo.com, il portale di musica in Creative Commons. È una versione di Jovano Jovan, anche pezzo popolare macedono in versione bosniaca, Sevdalinka, tipo, molto carino, dai. No, non è questo non è il pezzo popolare, abbiamo sbagliato tutto. È questo? C'è sempre i problemi della diretta. Sì, vai, è questo. Problemi della diretta. Allora vi auguriamo una buona serata, il veramente Fanta questa volta. Trio Dovigenia. Che finale alla brutto Dio. facciamo il finale che è venuto male. Va bene, cari ascoltatori, care ascoltatrici, vi auguriamo una piacevole serata. Dove c'è?